Alabama. Sweet home Alabama. Lenar Skinner. Dai Spadino che ce la fai. Ancora 23 minuti di diretta. E poi molliamo il colpo, sì. E poi si lavora. Benvenuti sulla frequenza di Rock FM. Questa è la nostra colazione. La colazione da leccarsi i baffi. Potrebbe essere un nuovo motto. Ce lo appuntiamo. A proposito di appunti, io qui sulla mia scaletta ho appuntato Brugherio Rock. Che ce la stavamo dimenticando? Qualche giorno fa avevamo sentito Simone, se non ricordo male. Sì, Simone. Che lavora in un negozio e aveva il problema che gli parte la filodiffusione per tutta la piazza di Brugherio. Cara redazione, rintraccia il numero che lo risentiamo. Bisogna organizzare il colpaccio. Avevamo promesso di andare in filodiffusione a Brugherio. Non vedo perché non farlo. Quindi contattatevelo. Intanto vi saluto tutti voi che state scrivendo. Chloe ha un piccolo problema. Suo fidanzato, che è rock, quest'anno non le farà il regalo per il secondo Natale consecutivo. Vedete di convincerlo voi. Ha ragione però, scusa. Caro fidanzato rock di Chloe, perché non farle il regalo? Questo Natale è un Natale rock, ricordaglielo Chloe, quindi lo deve fare. Ciao Manolo 122. Ciao a tu che chiedi la strombazzata per l'esame e in cambio mi proponi le Seadas di tua mamma, volentierissimo. Ruggero l'autista, saluti, Ale Pane, la Cri, il Bonci, Veda Firenze, preoccupata perché ha riempito la casa di lucine natalizie e le si sono fulminate tutte. Vorrà dire qualcosa? Ciao Baba, saluto al mitico Gianfranco Boys, la nicchia vincerà. Lui è un amico che ha scoperto chi è il vero Babbo Natale rock. Vi do un indizio, scrive, suona in una band chiamata ZZ Top. Ciao Claude, da Lugo di Romagna, bella lì. Oh, senti che musica. David Bowie, Starman. Ehi la la. Buona giornata, buon giovedì. Dai che gli affamo, ragazzi. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks. Let the children lose it. questo tra la di Starman occupiamoci delle promesse fatte, lanciate da Pane, Burro e Rock and Roll. Qui ogni promessa è debito. Un radioascoltatore aveva un problema, come molti di voi là fuori, ma lui ha avuto il coraggio di parlarne in diretta con noi. Do il bentornato a Simone dalla Brugherio che conta. Buona giornata, Simone. Ciao Achille, buongiorno a tutti. Allora, facciamo un breve riassunto di quello che succedeva. Tu eri disperato perché hai un negozio in piazza. Un negozio in piazza, uno dei commercianti ha avuto la brillante idea di mettere la filodiffusione per tutta la Brugherio per il periodo natalizio, e quindi il buon Simone fa partire giorno dopo giorno un CD di cori natalizi tra i bambini, cori delle voci bianche e tutto il resto. Quando è che ci siamo sentiti? Era settimana questa? Settimana scorsa. Addirittura settimana scorsa. Come sono andate queste giornate con la musica in rotazione? Tutte uguali, tutte sempre la solita lagna. Potresti cantarle a memoria? Quasi. Vuoi accennarcene qualcuna? I'm dreaming of a white Christmas. Sì, mi ricorda qualcosa, mi sembra di averla sentita da qualche parte. Sì, caro Wild. Esatto, Wild Christmas. Senti, la cosa interessante è che il tutto parte dal tuo negozio, cioè ti hanno affidato a te la possibilità di sparare questa musica. Esatto, con somma gioia ho accettato l'incarico di far partire la musica. Se non ahimè. Fosse che possiamo rifarci, allora organizziamo il tuo, lo facciamo domani. Va bene. Però tu devi arrivare al lavoro un po' prima, perché tu apri alle 9 di solito. Esatto. Restiamo d'accordo. Con questo sacrificio di arrivare. Fallo per noi. Arrivi verso 9 meno un quarto. Questo è altro. Esatto. Così ci fai provare l'emozione di andare in filodiffusione per Brugherio. Esatto. Noi ci teniamo buona la canzone Buon Natale per Rock. Tu sintonizzi su Rock FM e la spariamo nel paese. Perfettamente. Ma tu regoli anche il volume? Sì, ma lo metterò a volume spropositato. Mi puoi mettere? Senti, se poi arriva il messo comunale ad arrestarti, vedremo di far. No, ma non credo. Ma sì, tranquillo, barchico. E ti barchi dentro, con le scarpe. Va bene, in mezzo alle scatole delle scarpe. Simone, esatto. Allora mi raccomando, appuntamento domani, noi l'abbiamo promesso. La filodiffusione in Brugherio Rock la facciamo domani. Perfetto. Ciao Simone, resisti per oggi, mancano ancora il weekend. Sì, manca poco. Manca poco. Ciao, tieni duro. Ciao. Every day, just to drive to my baby. From 10 to 6 months each day. Magic bus. visitor. You are my magic bus. I drive my baby in my magic bus. I'd like to wish everybody happy Christmas, happy new year. From there to here, happy new year, happy new year, happy new year, happy new year. A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. Thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. Guardi cosa imbraccia Spadino, il laserone che punta sulla Lapponia. Ah, la parabolona! Bello, bello, bello, bello. Ci mettono in collegamento con Babbo Natale, l'unico che arriva da Rho, ha vinto un concorso e sa guidare le renne. Eccolo qui, è già arrivato. È lei! Milano chiama Santa! Santa! Natale! Mica vado male! Eccolo qua! Eccolo, è lui! Aspettavamo il tormentone! È lui, è il marchio di fare. Lambrica. Come sta Natale? Land Disaster, Kiki. Si avvicina, Land Disaster è arriva andato. È un problema grosso adesso. Sì. Un problema grosso. So che mi è venuto fuori il bollo da pagare della slitta. Ma se ci sono le REN, che bollo si paga? Si paga il bollo, sì, sulla base delle REN fiscali. Ah, beh, complimenti. Le REN fiscali, come si calcolano? Bisogna prendere la REN, sì, moltiplicarla per 12, dividerla per 7, e c'è una percentuale che adesso non capite. Insomma, è una roba che non si capisce niente. C'è la burocrazia anche qui a Natalandia! A Natalandia. Senta, ma a Natalandia come si sta adesso che siete in periodo, il periodo caldo? Qualche regalo particolare, qualche indiscrezione, qualche sottovoce rockstar? Sì, e poi gli elfi e i nani hanno fatto pace. Lei tiene questa cosa? Ma sì, perché li vedo sempre, sempre così astiosi. Ma ci dica, i suoi nani come stanno? Caccolo! Eccolo lì. Caccolo! No. Non fumare! No, lasci stare Caccolo! Vieni qua, Caccolo! Lasci stare Caccolo, sì, venga qua! Cannolo come sta? Cannolo! Lasci stare nani, mannaggia! Ha problemi di peso ancora? Cannolo, sì. Dalla volta che ha mangiato le noci di cocco di Chitrice non si è più ripreso. Immaginiamo. Il problema è Caccolo mi fuma sempre dentro quella roba lì che la spisa. E poi non capisci più niente, ascolta il bombardo. Non chieda che cosa fuma, fuma. Volevo sapere di Rantolo, tengo, se si è un po' ripreso Rantolo. Rantolo proprio è il nano difettato, cioè proprio nel pacchetto c'era questo qui difettato, mi è entrato in mutua ad aprile e è ancora lì che mi manda la carta del dottore. Non ci posso veramente chiedere, la prego, vada alla sezione regali alle rockstar, vediamo, ci dia qualche indiscrezione, vedere qua, qui, trova qualcuno, non lo so, cosa hanno chiesto queste rockstar? Allora vediamo, qui che vi incastiamo. Brian Warner. No, io conoscevo Brian Wilson. No, Brian Warner si chiama. Warner. Warner. Warner. Si chiama Warner. Come Warner. Che cosa le ha chiesto? Qui c'ho un ordine stranissimo, stanno 400 bibbie. È Marilyn Manson, maestro, è lui. Che cosa se ne fai? E sono bibbie già tutte fustellate che si possono strappare con facilità in pubblico. Ah, complimenti, perché fa il satanista. Roba così. Cioè, no, qui pronte per spedire a questo signore, come si chiamava? Brian Warner. Marilyn Manson. Perché Brian Warner ce l'ho scritto qua. Ecco. Esatto. Oh ragazzi, ma a proposito, ma avete fatto la lista per il Natale? Certo, ce l'ho io. I tempi si fanno stretti. Per la notte del 24. Vai tranquillo, vai. Vorrei, dai, spara, se fosse spara, possibile, spara. Avere 200... Babbo? Pronto? No. Pronto Milano, oggi... chiama Santa, pronto? Volevo chiedere cash oggi, 200.000 euro. Porca magari miseria, ce li dava, dividevo, idea. 50-50. 60-40, maestro. Spadino, ma facciamo qualcosa! bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, she's from Birmingham, bam a lam, way down in Alabama, bam a lam, well, she's shaking that thing, bam a lam, boy, she makes me sing, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam. Ed è su Bamba Lam, meglio Black Betty, Ram Jam. È la fine, miei cari amici, è la fine della puntata 150. I numerosi appuntamenti con noi, con me, Max De Riu, venerdì, domani sera a Firenze, all'ippodromo, con tanto di calendari della svolta 2008. Stavo dicendo calendari davvero rocker, effettivamente sono calendari davvero rocker. Oppure sabato sera all'Alcatraz di Milano, con me, Max De Riu. E ci mettiamo pure Claudia. Ehi! Giravoce che mi vesto da Babbo Natale, ma io non l'ho mai detta questa cosa. Tu che continui a scriverlo da tre giorni te lo sei inventato. Io non mi vestirò mai da Babbo Natale. Pane, burro e rock and roll. Scopriamolo insieme. A proposito di travestimenti, la colazione roll. C'era una segnalazione. Ecco. Pane, burro e rock and roll. In via Maino c'è un lavavetri vestito da Babbo Natale. Non va bene, questo è marketing. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Se tutto va bene, troverete la puntata 150 tra qualche minuto su radiorockfm.com in streaming oppure in podcast, mentre certamente tra pochi istanti il microfono viene passato a Marco Garavelli. Esatto, ciao. Con tanto di sciarpe, ti stai preparando al freddo dello studio, eh? Eh sì. Il guanti? No, beh, sai che questo è il posto più caldo di tutta la radio, immagina di là. E la tua stanza di là che è messa male? È molto male. Anche nella mia c'è un calorifero, ma... è anche acceso, si sente, acceso. Però fa freddo. Oh, fa freddo. Fa freddo, fa freddo. Fa freddo. Noi abbiamo questi orari e fa freddo. Fa freddo. Caro Caravelli, buona giornata. Ciao, pinguino.